c'è la forte radicalizzazione prima di tutto, ma non solo, della mafia siciliana negli Stati Uniti. La conferma dell'espansione dell'Ndrangheta anche in altre regioni fuori dall'Italia. Zazzo Salvatore è stato preso nel centro storico di Barcellona. Le mappe dell'Ndrangheta, i business di Cosa Nostra, le rotte della Camorra. A Storiacce di questa settimana, il Made in Italy delle mafie, un affare da 118 miliardi l'anno. Sono Raffaella Calandra e vi aspetto sabato alle 13:15 su Radio 24.